Si capisce? No, adesso si capisce. Ecco, allora. Siamo pochi perché non dobbiamo capire. Va bene. Vabbè, della Lega credo se ne parla molto e quindi tutti hanno qualche idea. L'idea che evidentemente è più chiara è quella della Lega come fenomeno di protesta, cioè di protesta contro la partitocrazia, protesta contro Roma, protesta contro vari aspetti della vita politica italiana. Ecco, il problema che noi siamo posti come nel nostro lavoro di analisi è stato quello anzitutto di capire esattamente le componenti di questa protesta, in quanto fenomeni di protesta sono già esistiti in Italia in varie ondate, in vari momenti, ma questo della Lega sembra dotato di alcune particolarità che ne fanno un po' un fenomeno parzialmente nuovo e un fenomeno che ha alcune analogie con altri fenomeni europei, ma diciamo così è fortemente legato all'esperienza politica italiana. Ecco, un aspetto che colpisce rispetto ad altri movimenti che sono stati espressi negli ultimi anni da movimenti da quello ecologista, i movimenti pacifisti, il femminismo stesso, altri movimenti nel mondo giovanile, è il carattere di, da un lato, diciamo così, la radicalità, se vogliamo, il tipo di quasi di violenza che viene espresso in questa protesta, e dall'altro lato il fatto che al di là della protesta si è generata in tempi relativamente brevi, la cosa sembra tendere un po' a consolidarsi, una forte identificazione collettiva, cioè un forte senso di appartenenza a un qualcosa di nuovo che è abbastanza inedito nel panorama italiano, un qualcosa che non si colloca chiaramente, anche se poi possiamo avere certe idee a riguardo, nel classico gioco destra-sinistra, è un'identificazione con una realtà che sembra in parte territoriale, in parte però non è neanche territoriale, e che comunque sembra giocare per adesso almeno un certo ruolo nella scena italiana, perché non solo ha avuto i successi che ha avuto, quindi si è espansa in un'area non piccola del nord Italia, ma diciamo così c'è anche nell'analisi che abbiamo fatto sulle ultime elezioni una tendenza a una forte fedeltà elettorale, cioè quando la gente ha fatto la scelta di votare Lega tende a mantenerla, cioè come dire, come se ci fosse una qualche rottura di qualcosa, e che poi non dà solo luogo a un fenomeno di protesta che poi può disperdersi in tanti rivoli, ma si rompe un qualcosa e ci si attacca a qualche altra cosa, no? Che è un fenomeno che in qualche misura hanno avuto anche altri movimenti storici, però diciamo così, in questo caso il processo è abbastanza rapido e soprattutto avviene con delle coordinate che non sono quelle classiche dei conflitti storici che sono sviluppati in tutto il mondo sviluppato dagli anni 20 ad oggi, con tutti i conflitti classe operaia imprenditori, i conflitti a base religioso o di tipo interstatale. Ecco, allora io spero brevemente allora gli aspetti della protesta e poi cercherò di vedere, dare una prima valutazione del perché e come si crea in qualche modo un nuovo soggetto che appare dotato di una certa consistenza, a suo poi al di là dei destini che avrà nell'immediato in termini di presenza parlamentare, ma che comunque sembra destinato ad avere un ruolo importante nel nostro panorama. Ecco, rispetto alla protesta, l'andamento del movimento è abbastanza, come dire, tipico nella fase iniziale, in quanto pur partendo da zone, diciamo così, periferiche, quindi qualcuno l'ha definito un movimento tipo localista, però già subito si è impostato su una base di tipo quasi nazionalista, cioè ha subito fatto il discorso della Lega Lombarda in particolare, ma poi un discorso analogo è stato fatto anche in Veneto, anche in Piemonte, in altre modalità, di valorizzare un aspetto di tipo nazionale, cioè il discorso del dobbiamo riconoscere prima di tutto come lombardi e difendere la Emiliano. In Emilia certamente qui non dica che riga no e riga lo fate. Sì, sì, ha ragione. Nel senso che io parlavo della Lega Lombarda, comunque in Emilia evidentemente c'è anche un altro tipo di impostazione. Ecco, ecco, allora, nella fase iniziale in sostanza si è mossa con un'impostazione che partiva anche da realtà locali particolari, da certi nuclei iniziali per la Lega Lombarda nel Varesotto, per la Lega Veneta in altre zone, ma comunque dare circoscritte, ma già subito con un'impostazione di tipo regionalista, ma che in qualche modo rivendicava non soltanto un'autonomia regionale, ma rivendicava anche, diciamo così, una specificità culturale di tipo nazionale. Cioè c'era un discorso di il popolo lombardo, l'etnia quasi lombarda, il valorizzare la propria storia, la propria tradizione. Quindi in qualche modo quello che avevano fatto in passato alcune regioni periferiche come la Valle d'Aosta, il Sud Tirolo o in parte anche con altre modalità anche la Sardegna, cioè una serie di regioni però periferiche in Italia. Ti racconto un attimo la cosa, lo conosco, non è che la Costituzione fa il suo regione, è tutto speciale. Ecco, se giustamente è stato. La posso fare la domanda, io mi devo dire la sua. Io vengo da fare. Ma stai dopo le domande. Comunque no. Allora, dicevo, l'impostazione iniziale era in qualche modo, diciamo, una imitazione, diciamo, della stessa impostazione che avevano usato altre, diciamo così, altre regioni a statuto speciale, come dico, alcune particolari regioni a statuto speciale, in cui però esisteva veramente una specificità sia linguistica e anche in parte una tradizione autonoma culturale abbastanza consolidata con anche un retaggio storico. Per cui in quel senso il punto di partenza era questo tipo di specificità linguistica e culturale, e a partire da quello si rivendicava la, diciamo così, una certa autonomia politica o quasi in una certa ottica anche un'indipendenza. Ecco, il movimento invece regionalista del nord Italia, cioè in particolare la Lega Lombarda, ma lo stesso discorso è stato fatto anche in Veneto e in Piemonte e poi successivamente in altre regioni del nord Italia, usavi invece questo tipo di rivendicazione, diciamo, più strumentalmente. Cioè l'impostazione di questi movimenti era quella di rivendicare in qualche modo un'autonomia, diciamo così, regionale, e di usare alcune specificità, in particolare poi quella che è stata più pubblicizzata, l'uso del dialetto locale o, se vogliamo, in qualche modo anche il rivendicare certe tradizioni culturali, diciamo così, più come elemento di riconoscimento, cioè in sostanza, diciamo così, per rafforzare, se vogliamo, una rivendicazione che era fondamentalmente una rivendicazione di riorganizzare la gestione, diciamo così, degli interessi su base territoriale. Ecco, in questo senso quindi si raccoglie l'impostazione dei movimenti autonomisti, diciamo, storici, però c'è già, e questo anche nella fase iniziale di questi movimenti, un'impostazione a mettere l'accento sulla rivendicazione di una qualche forma di autonomia, di gestione di risorse. No? Non so se qualcuno di voi ha visto mai il programma della Lega, il primo programma della Lega Lombarda in questo caso, ma gli altri erano abbastanza simili, dell'82 e quello dell'83, in sostanza si rivendicava, a parte queste cose di tipo appunto simbolico, l'esposizione della bandiera regionale e altre cose di questo tipo qua, dell'uso della lingua, si rivendicava in sostanza una priorità dei lombardi, per i lombardi, poi per le altre regioni il discorso era analogo, nella gestione delle risorse, e quindi la priorità rispetto agli accessi ai posti di lavoro, a diverse forme di assistenza pubblica, e in qualche modo uno svincolarsi, se vogliamo, dal centro romano. Quindi, se vogliamo, quindi, come modello iniziale di protesta è quello che viene definito nella letteratura fondamentalmente come una protesta più di tipo regionalista o territorialista, e cioè un territorio che in qualche modo si sente poco rappresentato o comunque non più sufficientemente rappresentato a livello politico, che si sente centrale economicamente e però relativamente periferico in termini di potere politico, che in qualche modo rivendica una certa, come dire, un certo riequilibrio sul terreno del potere politico, e quindi lo rivendica almeno inizialmente nella forma dell'autonomismo regionalista. No? Il discorso iniziale della Lega, fra l'altro, non è come l'attuale discorso della Lega Nord, era una richiesta di trasformazione federale su base di singola regione, non di macro regione, e questo è un cambiamento non da poco che poi è stato fatto. Ecco, questa è un po' la prima impostazione, e su questa base, comunque, fatto non inizia per prima la Lega Lombarda, ma la prima a avere successo, come sapete, è la Lega Veneta, che arriva fino ad avere un 4% dei voti nell'83, e successivamente quella Piemonte, i vari movimenti autonomisti piemontesi, e la Lega Lombarda in qualche modo segue con un certo ritardo. Nell'87 riesce a avere soltanto il 3% a livello della regione Lombardia, e riesce a avere un deputato e un senatore, ma fondamentalmente in una certa area periferica, cioè non riesce praticamente per niente a sfondare nell'area milanese, nelle aree più, come dire, importanti, almeno a livello del centro della regione stessa. Ecco, questo tipo di impostazione, comunque, quindi una protesta a base territoriale, in sostanza nasce, adesso qui sarebbe un discorso lungo da fare, ma riesce ad avere un primo impatto, anche se non fortissimo, come poi sarà la successiva ondata leghista, per il fatto che il tipo di mediazione territoriale che in Italia si era fino ad ora realizzato, di mediazione di rappresentanza territoriale, era essenzialmente interno ai grandi partiti di massa, e in parte anche compensato da una localizzazione territoriale dei diversi partiti di massa che privilegiava certe regioni. Mi spiego meglio: la rappresentanza, se vogliamo, delle diverse aree territoriali del paese a livello politico nazionale era garantita dal fatto che, in sostanza, nella DC e in parte nel PC e in parte nei principali partiti, le classi dirigenti locali, regionali, erano in qualche modo cooptate, no, in varie forme, con un certo rapporto, in quella nazionale. E c'era al limite anche tutta una specie di codice Sencelli anche nelle ripartizioni ministeriali, se vogliamo, o dei sottosegretari, e anche per partiti di opposizione c'era una certa forma di rappresentanza. Da un altro punto di vista, quindi, si sentivano parzialmente rappresentati in questo modo le diverse aree territoriali, e in secondo luogo erano rappresentate dal fatto che in certe aree, parliamo nelle zone bianche la DC, nelle zone ex rosse o rosse, non so, il PC, in qualche modo, essendo i partiti più radicati localmente, in qualche modo garantivano, se vogliamo, una certa rappresentanza a livello della gestione delle risorse, e se vogliamo anche una certa visibilità dei modelli culturali locali, cioè c'era anche una trasposizione di certi valori, di certi punti di riferimento che contavano per le comunità locali a livello nazionale. Ecco, questo tipo di mediazione garantito dai partiti di massa che in Italia si sono poi formati e sono sviluppati nel secondo dopoguerra, ecco, si era progressivamente, o comunque, come dire, indebolita negli anni, in particolare dopo gli anni 70, con il fatto che questo scambio, ricambio a livello di ceto politico tra aree territoriali locali e centro si è parzialmente interrotto, con delle forme di centralizzazione, di parziale separazione, e dall'altro lato, se vogliamo, la stessa capacità di rappresentanza dei partiti più radicati localmente a livello nazionale si è parzialmente scomposta, un po' perché, per problemi anche di difficoltà di distribuire risorse, cioè i problemi del deficit dello Stato si facevano sentire, quindi le capacità di distribuire risorse, in particolare nel nord, erano sempre più limitate, e in parte per problemi diversi, cioè per il fatto che questi grandi partiti di massa dovevano anche, non solo ovviamente, mediare territorialmente, cioè quindi dare una giusta distribuzione di risorse alle diverse aree territoriali, ma mediare anche a livello, come dire, verticale, fra ceti, classi e altri tipi di interesse, e quindi in qualche modo la loro mediazione territoriale si era fortemente indebolita. Ecco, se vogliamo, allora, in questo senso, quindi c'è una prima ondata che peraltro passa quasi inosservata e poco notata, viene quasi confusa come un fenomeno di folklore locale, perché parlano in dialetto, perché in qualche modo rivitalizzano la cultura locale, eccetera, ma comunque questa prima ondata, pur essendo, appunto, non sfondando così come poi farà la Lega Nord ampiamente sul territorio, avendo risultati che vanno appunto al massimo al 4% in certe zone, ecco, comunque è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, cioè sarà un passaggio necessario, anche se non sufficiente, per il salto successivo che invece verrà fatto prima dalla Lega Lombarda e poi complessivamente dalla Lega Nord, a diventare, come sappiamo, il quarto partito italiano. Cioè, senza questo primo accumulo, ecco, questa è una prima riflessione, che senza questo primo accumulo di, diciamo così, una rappresentanza di una forma di protesta territoriale in qualche modo, quindi di un sentimento di parziale deprivazione a livello di gestione delle risorse economiche e del potere politico, ecco, che in qualche modo serpeggiava in tutti gli anni Ottanta, che appunto indicava un logoramento di un rapporto più vitale tra centro e periferia, e fra l'altro una cosa che poi sarebbe interessante da riprendere, rivelava anche il totale fallimento della riforma regionale che fu fatta, come vi ricorderete, prima anni 70, e che praticamente ha dato un risultato largamente insoddisfacente, anche se poi è un po' diverso il bilancio per le singole regioni. Ecco, comunque questa situazione di crisi del rapporto centro-periferia o del rapporto di rappresentanza territoriale è comunque la prima base importante del successo della legge. Questa cosa andrebbe comunque riflettuta anche per un discorso più ampio sui problemi della sinistra, eccetera. Comunque è un primo problema. Ecco, però la cosa importante da osservare è che è una condizione necessaria ma non sufficiente per quello che poi è successo. Senza questa prima fase di accumulo di forze, di primo radicamento, ecco, probabilmente non sarebbe stato possibile, o almeno non avrebbe assunto le forme che poi ha assunto, il successivo balzo della Lega, no? E uno sfondamento di ben più ampi territori, no? Ecco, quindi diciamo questa era la prima base, e su questa base appunto cominciano ad avere i primi risultati, arrivano a insediare alcuni consiglieri in vari posti, qualche deputato, eccetera. Il limite di questa operazione qual era? No? Era che, diciamo così, mentre i movimenti regionalisti storici, cioè se vogliamo la Valle d'Aosta e il Sud Tirolo in particolare, in parte, e in parte la, come dire, la, il partito Stato d'Azione in Sardegna, comunque lì una storia leggermente diversa, restiamo ai due più così del nord, cioè questi due partiti qui, l'Unione Valdotene e il Sud Tirolo e l'Ospatai, erano veramente riusciti a diventare partiti molto, molto forti, maggioritari nella loro area, perché era abbastanza ovvio, perché esisteva una forte differenziazione culturale, etnico-culturale e linguistica, no? Per cui potevano presentarsi come rappresentanti interclassisti di tutta la comunità e quindi puntare. Questa operazione, come sapete, non è, su queste basi non poteva e non è riuscita, infatti, a queste formazioni regionaliste, che appunto toccavano aree periferiche e arrivavano a erodere appunto una piccola zona, contando su questo senso di malcontento e di parziale senso di deprivazione di rappresentanza territoriale. Allora, qual è l'elemento che ha fatto scattare, come dire, il tipo di processo che poi ha portato la Lega Nord ai successi? È stato quello che appunto io avevo definito come protesta di tipo populista, e cioè in sostanza innescare, no, su questa protesta di tipo regionalista territoriale un'altra protesta che questa volta non investe soltanto la classe politica nazionale o il centro di Roma, anche se ovviamente è ancora fortemente coronata da una polemica verso Roma, perché Roma è al tempo stesso il simbolo sia del potere centralizzato sul piano territoriale, ma anche il simbolo del centro politico italiano, cioè è come dire, il punto di riferimento delle istituzioni politiche nazionali, tutto, e se vogliamo anche la residenza effettiva di tutte le espressioni politiche importanti dell'Unione Nazionale. Ecco, l'altro elemento su cui falleva inizialmente e fortemente la Lega Lombarda, e poi progressivamente la cosa si estende, è invece un senso di, come dire, di scollamento, se vogliamo, di senso di non essere più rappresentati adeguatamente, non soltanto in senso territoriale, ma più in generale in senso, se vogliamo, di tutta la classe politica, di tutto il ceto dirigente, e se vogliamo anche in generale, diciamo così, delle elite, inteso in senso anche culturale ed economico. E cioè, se volete, una protesta di tipo territoriale o regionalista, o se vogliamo etnico-territoriale, normalmente si allea, cioè assume anche come riferimento la classe politica, o se vogliamo il ceto intellettuale, come dire, locale o regionale. Ecco, in questo caso invece l'operazione è, e il tipo di risentimento che porta alla luce Bossi e poi la Lega Lombarda, è un risentimento più generale di non essere rappresentati, e cioè che i problemi, il modo di pensare, il tipo di le paure, ecco, una serie di istanze che diffuse nel popolare non erano più interpretate, se vogliamo, dal gioco politico-partitico, quindi sia dal centro di Roma, anche più in generale dai partiti e dalla cultura politica storica, che bene o male si era sedimentata in tutta la storia italiana e, se vogliamo, anche più in generale occidentale. Quindi anche le stesse categorie, la categoria destra-sinistra, per dire una delle prime, no? Ma più in generale il tipo di conflitti, il tipo di stanza. Ecco, il fatto che in qualche modo Vabbè, su cui, il discorso sarebbe anche qui lungo da sviluppare, ma in sostanza, detto in modo molto sintetico, tutta l'ondata che parte dal dopoguerra fino agli anni 70, che in qualche modo è dominata in fondo dalla contrapposizione fra i grandi partiti di massa, fra le due grandi culture, quella di orientamento marxista e quella di orientamento cattolico, e il fatto che un po' tutte anche le problematiche specifiche poi sono ricondotte al gioco di questo tipo di culture, o sono reinterpretate o sono definite da queste culture, ecco, tutta questa storia si è fortemente logorata e in qualche modo negli anni 80, in una situazione che apparentemente sembrava di una certa immobilità, cioè apparentemente, se voi andate a vedere le statistiche elettorali degli anni 80, segnalano una grossa immobilità. I partiti di massa sembrano restare più o meno sempre gli stessi, più o meno con le stesse rapporti di forza, no? Questo fino verso l'87-88 va avanti, no? Quindi in questa apparente immobilità, in realtà, si sgretolava sotterraneamente e si creava una certa difficoltà. Cioè, questi partiti facevano il gioco di sempre, se vogliamo, parlavano la lingua di sempre. Questa lingua e questo gioco, per dire in modo sintetico, sempre meno sembravano interpretare conflitti, aspirazioni, problematiche che la gente sentiva. Ecco, in questo quadro, ecco, allora, l'operazione che fa la Lega è di giocare giocare alla protesta in senso regionalista, quindi il conflitto centro-periferia, il senso di sentirsi poco rappresentati come aree territoriali e che dal punto di vista loro sarebbero anche aree etnico-nazionali. Ma di giocare la carta della delegittimazione, se vogliamo, del complesso del ceto politico, quindi anche quello locale, quindi non van bene non solo i politici romani ma anche i politici lombardi. Beh, adesso certamente tutti lo direbbero, ma questo discorso era stato fatto anche molto prima che scoppiassero le... cioè, in altre parole, mentre i movimenti tipicamente regionalisti e etico-territoriali a volte si allenano con, comunque, anche se poi hanno dei conflitti interni, comunque cercano di incorporare l'elite culturale, l'elite economica e anche in parte l'elite politica, regionale, no? In questo caso invece, nel caso invece di questi movimenti, c'è un'operazione di delegittimazione e c'è quel tipo di stile comunicativo, se vogliamo, che poi ha reso famoso Bossi e che poi infatti adesso viene sempre più imitato anche dai media che usano questo modo di parlare anche nelle trasmissioni di intrattenimento, che se vogliamo, cioè il fatto di portare contemporaneamente un certo modo di parlare, cioè un linguaggio diverso da quello che usano i politici, quindi un linguaggio immediato, non è soltanto un problema, come dire, un escamotage di tipo, per accattivarsi le simpatie della gente, per parlare più chiaramente, ma di per sé, cioè, per esempio, è la prima volta, e non si era mai visto nel gioco politico italiano, che viene portato, no, in pubblico, quindi non solo alla TV, ma in generale in una serie di stanze istituzionali, un linguaggio che volutamente non cerca di elevarsi al linguaggio del ceto dominante, delle classi colte, che volutamente, anzi quasi insistentemente, gioca con delle formule anche volgari o anche, in certi casi offensive rispetto a un certo modo di intendere la buona educazione. Ecco, allora, questa cosa, gioca su vari piani, cioè gioca da un lato come il fatto di portarla provocativamente in questo modo, è quasi esso stesso una metafora per segnalare quanto è distante il parlato della gente dal parlato dell'elite politica e culturale, cioè, quindi già di per sé, già il fatto di parlare in questo modo è già un modo per segnalare questa distanza. L'altro elemento, l'altra operazione che viene fatta è di portare i contenuti di questo parlato, cioè nel parlato della gente, il nostro parlato subculturale, cioè il parlato del bar, delle stazioni, il linguaggio così comune, è fatto anche di molti luoghi comuni che normalmente non vengono espressi nel linguaggio dei politici. Ecco, allora, viene portato anche un discorso su questo tipo di... cioè viene portato non solo il linguaggio, ma anche, se vogliamo, certi contenuti. Ecco, un terzo elemento fondamentale è tutta la metafora, che anche qui è interessante da osservare, perché rompe con tutta la... che c'è sempre in tutte le forme di discorso politico e, evocazione di una forma conflittuale, un qualche referente profondo di tipo, diciamo, mitico, cioè viene sempre evocato in qualche modo una qualche mitologia fondante che in qualche modo dà forza, spessore anche, se vogliamo. Ecco, in questo caso il tipo di mitologia che è evocata dal discorso dei leghisti, che è molto rozza e elementare, è una mitologia inedita che non ha niente a che fare con le mitologie storiche sia dell'area della sinistra, l'area liberal democratica, tutta la mitologia risorgimentale e tutte le mitologie di tipo religioso cattolico, giochi invece sulla mitologia, se vogliamo qui, abbastanza curiosa ma efficace per il tipo di battaglia che viene fatta, che il discorso appunto di diciamo così della Lega, Alberto da Giussano, il guerriero che in qualche modo interviene per difendere e che in qualche modo porta e unisce in qualche modo le due proteste che dicevo prima, la protesta territoriale e la protesta populista, nel senso di evocare l'idea di una comunità di per sé sana, una comunità che è anche idealizzata, cioè la comunità della gente comune che lavora, produce, è onesta, eccetera, che sarebbe minacciata e depredata da lo straniero, che poi è a volte il romano, può essere il meridionale, può essere l'immigrato, che in qualche modo quindi si propone come, diciamo così, come un fondamento che in qualche modo rispecchia un'idea che tra la gente circola. Cioè, se voi, come dire, a livello di questo si rivela, se uno fa dei sondaggi, delle indagini sull'opinione pubblica, si rivelano sempre di più, ma d'altra parte la stessa cosa si vede sul modo in cui i media trattano le questioni, si rivela sempre più delle insicurezze, no? Cioè, pur in una situazione quale quella italiana, in particolare del nord Italia, che non è né di povertà né di particolari gravi problemi di malessere, quindi una situazione in cui si può dire la gente sta relativamente bene, in generale con ovviamente squilibri non piccoli, in questa situazione però si rivela una situazione di notevole insicurezza per una serie di motivi e di pericoli che vanno da temi come la criminalità, temi come vari pericoli, malattie, cioè c'è comunque una sensazione di relativa insicurezza che viene accelerata da processi che sono in atto non solo su scala italiana ma internazionale, che vanno dal tema ovviamente della crisi industriale con temi della deindustrializzazione, la problematica dell'immigrazione che può competere su una serie di risorse, il tema dell'unificazione europea che ha effetti anche qui sia sul piano economico sia sul piano anche dell'identità e quindi dei problemi di confronto con la storia. Quindi, allora, questo tipo di logica che porta avanti la Lega riesce in qualche modo a presentare, no, su questo terreno un tipo di linguaggio, quindi di rinverdire, se vogliamo, una specie di mitologia, di pensiero mitico, che in qualche modo però è perfettamente, o comunque trova facilmente ascolto in una società che, appunto, dicevo, pur essendo in Italia in condizioni, cioè diciamo l'area del nord Italia in condizioni relativamente così di benessere e non avendo anche dei pericoli immediati così pesanti, però sottilmente può intravedere, specialmente in certi settori popolari, dei pericoli potenziali abbastanza alle porte e che già in certe categorie sociali sono pericoli reali. Ecco, in questo quadro, allora, l'operazione che fa Bossi è, che poi porta avanti la Lega, è di unire le due cose. In questo modo viene in qualche modo a delinearsi sia una comunità che è abbastanza nuova rispetto alle comunità che facevano da riferimento alle grandi culture politiche, cioè se vogliamo le grandi culture politiche italiane avevano come riferimento il popolo cristiano da una parte e il popolo comunista dall'altra, no? Le due figure mitiche, se vogliamo, Don Camillo e Peppone, dei film che forse qualcuno aveva visto alla TV. Ecco, quindi rispetto a questa cosa ripropone un'altra comunità di riferimento importante che appunto, e anche se appunto non è così evidente in termini né razziali né culturali in modo preciso, ma viene evocata, viene in qualche modo giocata, che è la comunità, se vogliamo, della gente comune di una certa area relativamente sviluppata, che poi è quella che dovrebbe essere in teoria la sede della Repubblica del Nord. Ecco, su questa base, qui credo i dati li conoscete, ecco, c'è il balzo che è molto forte prima in Lombardia, e c'è il balzo appunto da pochi punti a arrivare quasi al 20%, e poi le altre leghe del nord Italia, appunto quella veneta e quella piemontese, che prima avevano avuto una certa fase crescente sull'onda regionalista e poi cominciavano a decrescere, anche loro riescono ad avere questo impulso, e poi c'è l'espansione che arriva abbastanza, non completamente, ma a toccare buona parte dell'Emilia, anche se è più la zona, mi pare, vicino dell'area Piacenza e Parma, e solo parzialmente nel resto dell'Emilia. Ecco, in questa logica, allora, l'impostazione della Lega quindi riesce a passare dalla protesta a un discorso che è una forma, loro lo fanno in forma non di Stato per ora, ma assomiglia molto al discorso, come dire, che storicamente è sempre stato quello della costruzione delle nazioni. Cioè, loro non parlano di Stato del Nord Italia, però parlano di Repubblica del Nord, parlano di macro regione, ecco, e che in qualche modo quindi è una combinazione di vogliamo, una protesta verso il centro, ma che è anche una forma di delegittimazione, diciamo così, totale rispetto alle elite politiche e, se vogliamo, anche economiche e culturali che hanno finora governato l'Italia. E quindi, se vogliamo, è una proposta di alternativa globale e che, come dire, dovrebbe sfociare nel loro disegno, poi la cosa è da vedere come andrà a finire, in una qualche logica di tipo separatista. Cioè, in questo quadro, ecco, e qui sarebbe un discorso anche lungo da aprire per i problemi che poi si trovano di fronte alla sinistra, è una proposta quindi che ha una sua comunità forte di riferimento, che è individuata in termini prevalentemente territoriali e che però gioca sui conflitti in termini di separazione. Se voi, ecco, riflettete un attimo, le comunità di riferimento storiche, sia quella cristiana, sia quella comunista, o quella, ecco, erano comunità certamente parziali, quindi che lottavano con altri tipi di culture e ideologie, ma che potenzialmente erano universaliste. Cioè, ovviamente per il cristiano era il processo di conversione di tipo universalistico, per diciamo così, la prospettiva comunista era un discorso in qualche modo di, anche qui, di tipo, non era specifico di una certa zona, non buttava a separarsi, ovviamente c'era un aspetto di lotta, ma l'operazione era di inglobare. Ecco, in questo tipo di proposte, in generale, la specificità che si trova peraltro anche in altre esperienze di forze emergenti in Europa è di fare fronte alle crisi, cioè non c'è più, e probabilmente qui sarebbe un discorso lungo sulle condizioni del mondo di oggi, quindi del mondo di oggi, non c'è più l'idea o l'aspettativa di un, di una comunità che riesce a inglobare le altre, ma c'è l'idea di una comunità sufficientemente ricca e sufficientemente forte che riesce a padroneggiare le sue paure, le sue angosce con una questione di separazione, cioè separandosi in qualche modo. Cioè il discorso che ha fatto Bossi dopo il risultato elettorale, ma che ha rifatto pochi giorni fa a Pontida, è: Roma deve scegliere se vuole stare con noi e con l'Europa oppure sta con Rwanda Burundi, no? Cioè lì, qui è sempre un linguaggio che è contemporaneamente un linguaggio, come dire, tipo grossolano e popolare, e che però ha sempre una serie di immaginari molto forti, e cioè l'idea che gestiamo le contraddizioni o i problemi di conflitti che ci possono essere, cioè se ci separiamo da altri che sono meno ricchi, che hanno meno efficienza di noi, che hanno altre caratteristiche culturali che non sono quelle adatte a affrontare i problemi. Se noi ci separiamo, padroneggiamo i nostri problemi, anche i nostri problemi interni, e quindi possiamo gestire anche i problemi della nostra società. Ecco, in questa idea c'è l'idea della separazione quindi territoriale, c'è l'idea della separazione etnica, cioè il fatto che noi lo riusciamo a gestire se non diventiamo una società multietnica, quindi dobbiamo in qualche modo creare una specie di barriera più o meno efficiente per impedire una forma di mescolanza con altre. Questo, e quindi, se vogliamo, c'è un'idea di base di questo. Non so se posso ancora 2 minuti. Ecco, quindi in questa traiettoria, se vogliamo, che ha segnato anche in parte i confini dello sviluppo della Lega, cioè la mia impressione, ma anche era l'impressione degli stessi leghisti dopo le elezioni, nelle elezioni ultime c'è stato un parziale blocco dell'espansione della Lega, cioè c'era un'aspettativa che si mettesse in moto una dinamica protestataria simile anche al centro e al sud, e invece non c'è stata questa cosa. La protesta al centro e al sud, che pure c'è rispetto ai partiti, ha preso altre vie. In questo senso, se vogliamo, allora, diciamo così, Bossi è in parte, o la Lega è in parte anche condannata a mantenere questo legame fra protesta, diciamo così, populista, antipartita, e protesta che ha una base di riferimento territoriale, quindi a questa area del nord. Quindi è in parte condannata, e quindi probabilmente punterà a consolidare, cioè il loro progetto sembra essere quello di puntare a consolidare la loro base, quindi a diventare talmente forti nel nord Italia da poter in qualche modo trattare quasi con il ricatto della separazione col centro di Roma. Ecco, in questa logica, diciamo così, il problema che deve affrontare la sinistra, lo dico solo telegraficamente, poi semmai il discorso sarà da riprendere, io credo sia quello di, uno, distinguere le diverse componenti della protesta, quindi ecco, il trattare il fenomeno come un'unica cosa, no? E trattarlo come, semplicemente dicendo che gli leghisti sono fascisti, quindi riconducendolo al classico schema delle battaglie politiche che esistevano, così erano le battaglie cruciali di tutto il dopoguerra italiano. Ecco, secondo me è un'impostazione riduttiva, perché evidentemente l'operazione che hanno fatto, che ha avuto successo, è stata quella di porsi fuori da questo gioco. Quindi il fatto che loro si dicono né di destra né di sinistra, anche se poi sono tendenzialmente più di destra che di sinistra, è comunque un aspetto di delegittimazione, se vogliamo, del tipo di linguaggio dei politici, e che se vengono affrontati su questo terreno Il discorso, come dire, cioè, se vengono affrontati con le categorie storiche della lotta politica italiana, ecco, è un modo di affrontare che tendenzialmente non è per niente efficace e non tocca i loro problemi. Io credo che il problema sia quello di capire, e quindi di, se vogliamo, riuscire a reinterpretare con un'ottica diversa, il tipo di proteste che loro hanno messo in atto. Cioè, in altre parole, il discorso della protesta territoriale, e cioè tutto il problema che può essere detto in tutta un'altra chiave, del fatto che c'è, e questo è vero, un sentimento di non rappresentanza delle istanze territoriali, locali e regionali, cioè che una volta erano mediate dai partiti di massa, che non lo sono più, o lo sono in modo molto insufficiente, che è un discorso che da gestirsi in chiave di decentramento, che era un vecchio discorso della sinistra, ma che io credo la sinistra non ha mai portato avanti, e anzi, semmai, dove è andata al potere, ha fortemente accentrato il potere. Ecco, quindi questo qui è tutto un discorso che andrebbe ripreso in una chiave che è opposta a quella della Lega, perché la Lega adesso non vuole più neanche fare le regioni, ma punta invece alle macro regioni, che sarebbero fortemente accentrate e accentrerebbero anche le risorse finanziarie. Ecco, quindi, se vogliamo, comunque questo, quindi andrebbe quindi in questo senso capita e interpretata però con una chiave invece di decentramento e di democratizzazione, come decentramento reale di poteri alla periferia rispetto al centro. E poi l'altro aspetto che invece va capito, e qui c'è tutto un lungo discorso da fare, è l'aspetto della protesta populista, che nasce dal fatto che, al di là del discorso di Bossi o di quello che fa la Lega, è un discorso vero che esiste un vero logoramento del modo in cui storicamente la sinistra interpretava il conflitto, e quindi del modo in cui la sinistra riesce a rendere presente nelle sue varie espressioni le istanze e il conflitto della base. Cioè, non è che i conflitti non ci siano più, anzi, come io mi aspetto, come sta dimostrando anche gli Stati Uniti d'America, ci saranno ancora conflitti e molto forti, però il problema che dovrebbe essere affrontato è che esiste un sentimento diffuso per cui questo conflitto non è più interpretato adeguatamente dalle modalità storiche in cui la sinistra lo ha definito. Allora qui c'è un problema complessissimo e tutt'altro che facile da affrontare, ma che andrebbe visto. Ecco, l'altro problema cruciale è il discorso del, se vogliamo, dei referenti, e cioè un tempo per la sinistra c'era la classe, no? O c'erano al limite anche il conflitto antiimperialista del piano mondiale. Ecco, anche qui c'è un altro grosso problema: quali possono essere oggi i referenti e come sono trasformati. Quindi un problema complessissimo dell'identità operaia oggi, cos'è e cosa non è, e se vogliamo sul piano mondiale quali possono essere i referenti di un discorso. Ecco, comunque la Lega l'ha trovato, e lo trova in questa comunità, e lo trova in questa logica della comunità ricca che si chiude a riccio e che gioca sulla separazione per difendere i suoi conflitti. Ed è, notate bene, un referente molto forte che avrà successo, ce l'ha non solo in Italia ma ce l'ha anche in molti paesi europei. Questa, se guardiamo all'esperienza con il Front National francese, i repubblicani in Germania, cioè questa idea della comunità forte che si difende e che si separa e che acquista in sé la forza per gestire i suoi problemi che sono grossi, ecco, è un elemento di grande forza che ha purtroppo che ha prevalentemente le forze di destra. Esiste il problema anche per la sinistra di quali sono i referenti nella sua cultura, ecco, e è possibile che i referenti storici abbiano oggi dei problemi. Questo io dovrei avere il compito di riflettere soprattutto sulla sinistra, mi è stato detto, è vero? Esatto. Ma sono 3 anni che io nelle mie modeste capacità continuo a insistere, e oggi purtroppo siamo, come del resto ricordava anche Bjorcio, in una fase nuova nel sostenere che le forze della sinistra e le forze del progresso hanno dimostrato di sottovalutare abbondantemente questo nuovo fenomeno, questo nuovo movimento che è cresciuto nel nostro paese. Dicevo, lo si è sottovalutato per degli anni. Io ho incominciato a preoccuparmi, per la verità, subito dopo le elezioni europee dell'89, è da allora che ho incominciato a studiare questo movimento, ma questa sottovalutazione è continuata fino a ieri, direi. Adesso più nessuno può permettersi di sottovalutare la Lega, considerato che è diventato un movimento oramai direi mostruoso in termini di cifre, soprattutto al nord. Credo che oggi purtroppo si verifica altri elementi. che derivano poi da questa sottovalutazione, il fatto che in genere le forze politiche sono prigioniere di questa presenza, si vorrebbero forse liberare ma non sanno più come liberarsi, ma soprattutto stanno rischiando di, come dire, rischiando un processo di omologazione, stanno cioè rischiando di subire il contagio di questa presenza. I fenomeni ce ne sono abbondanti nel nord, ma non solo nel nord. Laddove non la si è sottovalutata, la si è schernita, cioè si è teso soprattutto a prendere in considerazione gli aspetti folcloristici oppure a esasperare certe manifestazioni che evidentemente non potevano essere tollerate. Non so chi di voi ricorderà, visto che Blob l'ha di recente nuovamente fatto vedere, il sindaco di Milano Pillitteri, l'ex sindaco di Milano Pillitteri, quando a fronte delle vicende dell'ATM di via Palmanova, dove c'erano i leghisti, no? Tra l'altro in prima persona uno dei protagonisti di quelle lotte era un tal Prosperini, che poi è diventato ministro dell'educazione a Milano, nella capitale, quella che era la capitale morale del paese, e questo vi dice qual è il livello della situazione. Bene, allora vi ricorderete, Pillitteri rispondeva: con voi non voglio discutere, siete razzisti, siete fascisti, neonazisti, eccetera, gli hanno detto di tutti i colori, no? Sta di fatto che poi si è trovato i leghisti in comune di Milano, lui stesso li ha benedetti, li ha incamminati su questa strada. Quindi anche questo è un modo per dire che sono atteggiamenti, no? Se c'è un giornale che ha parlato male delle leghe costantemente è l'Avanti, eppure poi certe tresche che sono state fatte, queste portano proprio il marchio dei socialisti, non solo i socialisti ma anche di questi. Quindi c'è stata una fase di netta sottovalutazione, e questa sottovalutazione secondo me è derivata da diverse motivazioni. Tanto c'è un dato: i partiti si sono preoccupati, e non è un caso che stasera arriviamo qui, io sono già venuto per la verità, non so se 20-30 giorni fa, a Bologna nell'università, la facoltà di scienze politiche, no? Ma insomma non è un caso che siano chiamati, tra virgolette, gli esperti, gli studiosi delle leghe oggi e non 3 anni fa o 2 anni fa, no? Perché anche in Emilia oramai questo movimento c'è, incomincia a prendere voti e così via, ma in genere i partiti si sono preoccupati della Lega nel momento in cui questa ha incominciato a portare via loro dei seggi nei consigli comunali, nei consigli regionali e poi in Parlamento. Cioè si sono preoccupati solo da un punto di vista squisitamente politico, e proprio, direi, quest'ottica è stata secondo me all'origine poi e della sottovalutazione e del fatto che indirettamente i partiti stessi hanno favorito poi lo svilupparsi, l'evolversi di questo movimento. Perché non si è capito una cosa: che il leghismo, prima ancora che essere un fenomeno politico e quindi istituzionale, è un fenomeno socioculturale. Guardate, Bossi non è che si è portato, ha incassato tutti quei voti perché ha fatto una bella campagna elettorale, no, è vero, ha lavorato, ma perché ha indovinato, certamente ha anche indovinato tante cose, non c'è dubbio, col suo semplicismo è riuscito a conquistare tanta gente, ma Bossi, come dire, è uno che ha guadagnato voti perché questi consensi stavano già nella coscienza della gente, perché viviamo in una società dove oramai la sfiducia nel sistema politico, nei partiti, è oramai generalizzata, non c'è più una categoria sociale che oramai si riconosca in questo sistema, questo è il dato. Quindi è un fenomeno che prima ancora, se si vuol fare i conti con questo fenomeno, prima ancora di fare le battaglie politiche contro i bossi, i leghisti, eccetera, bisogna incominciare a ritornare nella società per prendere atto lì del tipo di malessere che questa società esprime e del quale appunto i leghisti, il leghismo si nutrono. Quindi io credo che noi siamo in presenza di un fenomeno, già qui Bjorcio ne accennava alcuni elementi, no? Che è estremamente complesso, che non è semplificabile. Cioè quando a me qualche politico ancora anni fa mi diceva: ma le leghe crescono perché non si è fatta la riforma delle autonomie, perché, ricordavo qui Bjorcio, l'operazione regionalismo è fallita. Certo che è vero, ma è una verità parziale, c'è anche questo, ma non è solo questo. qui non lo so se avrò il tempo per fare un cenno a qual è la dimensione oggi della crisi delle istituzioni e dello Stato e dei partiti e della politica in generale. È questo certamente, ma non è solo questo. Io sono del parere che a convincere la gente a votare le leghe ci siano anche le inquietudini, le ansie, le preoccupazioni, le incertezze della società moderna, e questo evidentemente ci riporta a fare i conti con lo sviluppo strutturale di questa società, con l'economia, con il mercato, con tutta una serie di altri fattori. Cioè, voglio dire che secondo me non è affatto pensabile che si possa individuare tra quel che produce il leghismo solo alcune questioni, soprattutto poi quelle che sono più appariscenti, ma invece secondo me è un fenomeno complesso e per capire queste cause bisogna scavare a fondo. Comunque degli errori precisi la sinistra li ha fatti. Il primo qual è stato? È quello, non solo la sinistra, ma a noi interessa soprattutto la sinistra. Il primo è stato quello di considerare questo movimento come un movimento precario, provvisorio. Cioè, qualcuno l'aveva definito addirittura meteora politica, ma non preoccupiamoci. C'è stato chi ha teorizzato, Derrida fra i tanti, che insomma bastava che domani i partiti storici mettessero in campo alcuni provvedimenti, quelli che ad esempio De Gasperi ha preso nei confronti dell'uomo qualunque l'indomani della liberazione e della fondazione della Repubblica, per riassorbire questi movimenti. Addirittura diceva Derrida: fate una cosa, comprateli, questi sono i nuovi chierici della mediazione, sono geometri, ingegneri, commercialisti eccetera, chiedetegli quanto costi sul piano regolatore, quanto costi per questo o quest'altro servizio, e così voi vi appropriate delle leghe. Oppure, ricordava ancora Derrida, fate un'altra cosa, appropriatevi dei loro programmi. E purtroppo questo secondo me sta avvenendo, è un rischio sempre più spesso che noi ci troveremo di fronte. Sta di fatto che questo movimento, come adesso hanno dimostrato i successi, non è affatto precario. Mi ricordo le cosa scriveva la Malfa, ma le dichiarazioni anche di altri partiti, di qualche mio dirigente di partito, se me lo consentite, alla vigilia di Brescia, quando ci fu la rottura fra Bossi e Castellazzi e il vostro Pierazzini, se non vado... Palloncino oramai si è sgonfiato e quindi non c'è più ragione di preoccuparci. Poi passava un mese, c'erano le elezioni a Brescia, la Lega diventava primo partito, no, c'è stati altri che hanno poi manifestato in modo pietoso spesse volte altre illusioni, è arrivato il 6 di aprile e noi abbiamo visto che purtroppo anche qui, tu dici è solo un fenomeno soprattutto di Piacenza e Parma, io dico che una Lega di Bossi che porta a casa il 9 qualcosa, il 12-13%, non so, a Reggio Emilia, a Modena, e poi porta a casa in cassa mi pare il 9-10%, anche 7, qui a Bologna 7. No, città, provincia, la provincia è qualcosa di più, la provincia è qualcosa di più, mi pare molto diverso, verso la Lega molto meno, in lontano molto più alto. Va bene, no, io faccio i calcoli provinciali, quindi so che a Modena comunque non è, provincia di Bologna non è al 7, è qualcosa di più. Ecco, sta di fatto che questo dimostra che noi non siamo di fronte a un fenomeno precario. Qui è un movimento che sta, oramai è un movimento che è paragonabile a qualsiasi altro partito di massa. Questo è il dato almeno per le regioni del nord. Ma soprattutto, ad esempio, c'è un fatto che è stato molto sottostimato in Lombardia ed è la capacità della Lega di Bossi in particolare di insediarsi socialmente. Questi si sono costituiti il sindacato, la loro Confindustria leghista, hanno costituito addirittura associazioni ricreative, culturali, insomma sono già insediati abbondantemente nel tessuto sociale, e questo sta a dimostrare che avendo messo quelle radici non è che anche da un punto di vista elettorale questo fenomeno potrà avere delle... Io sono del parere che dentro a una situazione preoccupante, c'è un dato, un aspetto positivo, che è quello che in Lombardia la Lega oramai ha dimostrato, come dire, la sua capacità, i limiti della sua capacità di estensione. Il fatto che nelle province di Bergamo e di Brescia abbia subito un arretramento, anzi anche in quella di Cremona, che non abbia più avuto la capacità di andare oltre, sorprendente può essere il dato della provincia di Varese, un po' meno quello di Como, ma sta di fatto che io sono del parere che insomma più di tanto questo movimento può andare. Si tratterebbe poi di ragionare se possiamo, come dire, accontentarci o essere e considerarci tranquilli per il fatto che, ad esempio, in una regione come la Lombardia, comunque una persona su quattro opta per le proposte e i progetti di Bossi. Secondo me già questo è un dato inquietante, perché io considero ad esempio la presenza di questo movimento come un fatto che crea dei guasti non solo per l'oggi, ma li crea anche per il futuro e soprattutto per delle forze come le nostre, che se ne avranno la capacità ancora di, appunto, di, come dire, di rinnovarsi, di adeguarsi anche, se volete, agli sviluppi della società moderna, non rinunciando di proporsi un progetto di cambiamento, devono pensare non solo all'oggi ma anche al futuro. Ma soprattutto c'è una cosa che a me convince credere, mi convince nel considerare questo movimento, questi movimenti, il leghismo in generale, come un fenomeno non precario ma invece duraturo nel tempo. Non so quanto, io lo metto in dipendenza dalla capacità dei partiti storici di dare delle risposte alternative, è dovuto al fatto che, ad esempio, in Lombardia, tra il 1985 e il 1992, le ultime elezioni, cioè in 7 anni, la capacità di raccolta del consenso dei partiti storici è caduta verticalmente. Cioè nell'85 i sette partiti storici, quelli del FU, pentapartito per intenderci, più il PC e l'MSI, cioè quelli che sono nati durante o immediatamente dopo la Costituente, ebbene raccoglievano l'83% dei consensi dell'intero elettorato, cioè degli aventi diritto al voto. Ciò significa che allora solo un 17% o si asteneva o votava le allora nuove formazioni. Allora c'erano le formazioni soprattutto di sinistra, la Nuova Sinistra, Pannella, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi i 7 partiti tradizionali, compreso, che è una cosa discutibile, il PDS e Rifondazione Comunista, cioè agli altri 6, compresi questi 2, in Lombardia raccolgono appena il 54% dei voti dell'intero elettorato. Questo cosa significa? Significa che oramai, soprattutto in Lombardia, per tante ragioni che io qui non ho evidentemente il tempo di sviluppare, gli elettori sono alla ricerca di nuovi soggetti politici e, non trovando evidentemente una capacità di cambiamento, di rifondazione da parte dei vecchi partiti storici, evidentemente questi danno il consenso alle nuove formazioni, e tra queste la Lega di Bossi fa evidentemente la parte del leone. Ecco, non tenere a mente questo, secondo me, che noi siamo in presenza oramai di uno, sfrangiamento dell'elettorato italiano, sarebbe una cosa grave. Un secondo elemento, un secondo aspetto che io considero un errore compiuto dalle forze della sinistra, è quello di avere considerato questi movimenti, in particolare il movimento di Bossi, come delle forze esclusivamente di carattere localistico. Ebbene, questo lo diceva già dal resto Biorcio prima, questo è un errore. Qui ci sono due elementi, io credo, che inducono a seria riflessione. Io mi sto chiedendo, oramai noi siamo in presenza non solo in Europa ma nel mondo occidentale, ma anche nel vecchio mondo dell'Est, al prorompere, al venire emergendo di movimenti addirittura reazionari, chiaramente di destra, movimenti razzisti, e laddove non crescono questi, come in Germania, come in Francia e così via, no? Comunque si stanno sviluppando ovunque movimenti di natura xenofoba, chiaramente xenofoba. Basterebbe andare a vedere addirittura nella Svezia, dalle grandi tradizioni socialdemocratiche, o in Austria, in Belgio, oramai dove si vota, no? Non c'è paese dove nasca e si presenti alle elezioni un movimento xenofobo, un movimento che informa la propria strategia all'intolleranza, ma non solo all'intolleranza. Io sono del parere che questi movimenti, al di là delle loro gradazioni poi politiche in termini di reazione, sono movimenti che nascono soprattutto da un bisogno che sta esplodendo ovunque in Occidente ed è tipico delle aree più evolute, cioè un bisogno di molte popolazioni, soprattutto quelle che stanno bene, di far da sé. Dal Giappone da Tokyo ad Amburgo, dal Canada agli Stati Uniti alla Svizzera stessa, per intenderci, stanno crescendo movimenti che si propongono, da una parte, la salvaguardia dello Stato sociale, e guarda caso sono tutti paesi, realtà dove si sta bene, no? e dall'altra, perché poi è conseguente, no? Che manifestano forti risentimenti nei confronti dei cosiddetti diversi. Quindi scattano in certi luoghi, lo dicevo, il razzismo, chiaramente posizioni razziste, dell'altra invece molto più moderate, xenofobe e così via. Bene, è possibile che questo vento che sta percorrendo non solo l'Europa ma l'Occidente intero risparmi l'Italia? No, se voi andate a ben vedere, il leghismo, le leghe, nascono qui sotto un segno moderato, ma spinte dagli stessi moventi. Alla base c'è questo bisogno di far da sé, alla base c'è questa intolleranza indotta. Quindi credere che le nostre leghe, soprattutto la Lega di Bossi, sia da considerarsi ancora un movimento legato alle istanze, la bandiera, il dialetto, eccetera, eccetera. No, qui sono stati fatti dei salti enormi di qualità sul piano politico e strategico. Questo sarebbe un errore. Bisogna che invece incominciamo a guardare a questi movimenti per quel che sono. Io ho timore, badate bene, che presto questi riescano a trovare occasioni di accordo strategico sul piano internazionale. Già Bossi ha incominciato, guardate, noi a sinistra non abbiamo più ragione di parlare di internazionalismo per tutte le cose che sono, abbiamo addirittura il povero Trentin che è costretto ad andare nell'America Latina, attaccarsi, uso un brutto termine, alla giacca di D'Antoni per poter inserirsi in un contesto a livello internazionale. Pensate bene, Bossi già da qualche tempo ha spinto e è riuscito a formare l'internazionale dell'autonomismo. Bossi sta lavorando a livello, direi, ampio raggio in Europa e soprattutto anche nei paesi dell'Est per mettere assieme quelli che lui ritiene siano i popoli soggiogati, dai lettoni agli irlandesi, ai baschi, eccetera, eccetera. E io temo che domani noi ci troveremo di fronte purtroppo anche a una dimensione di questo genere, di quel che io oggi chiamo leghismo, che potrebbe domani sicuramente dovrà essere chiamato come qualcosa di diverso. Quindi il leghismo è anche qui, insomma, il segno di uno spostamento a destra dell'asse politico del nostro paese. Questo è il punto. Terzo errore, e qui Biorcio si è cimentato su questa cosa, è quello appunto di considerare questo un movimento di protesta. Guardate, io ho ben chiaro, anche perché non credo di essere da questo punto di vista un ingenuo, ci ho lavorato, ci sto lavorando, insomma, qui bisogna distinguere chi vota la Lega Lombarda e poi chi dirige la Lega Lombarda, chi poi la esprime, politicamente e istituzionalmente. Quindi in genere io sono convinto che la gente vota Lega Lombarda perché ne ha piene le tasche dei partiti. Adesso poi che sono arrivate le tangenti, immaginate se domani si andasse a votare a Milano, no? Per fare un esempio, ma vota addirittura per, come dire, per dispetto ai partiti storici, per tante ragioni. Ma io mi chiedo, chi è in grado di dimostrarmi che in una qualsiasi epoca storica, in un qualsiasi paese, la protesta è rimasta per lungo tempo fine a se stessa? No, perché poi c'è un uso di questa protesta. Quando c'era un'egemonia in questo paese di sinistra, la protesta si rivolgeva a sinistra ed aveva poi evidentemente l'uso della, che la sinistra ne faceva. Quale uso ne farà la Lega Nord di questa protesta? Questo è il punto. Già qui ci sarebbe da riflettere a fondo sul fatto che insomma la Lega prende voti non solo perché sta venendo meno la capacità di egemonia della Democrazia Cristiana o di altre forze moderate, no, perché sta venendo meno anche la capacità di egemonia da parte della sinistra. Io vengo dalla Lombardia, vi posso dire che sono tanti gli operai, gli impiegati, i pensionati, i giovani disoccupati, i giovani in generale, facendo i conti sulla differenza tra Camera e Senato, viene fuori, è chiaro, è un dato solo indicativo, perché poi qui il fenomeno è poi degli spostamenti, i flussi eccetera, è complesso, ma insomma viene fuori che 4 giovani su 10 hanno votato per la Lega di Bossi, tendenzialmente. No? Quindi la sinistra già a questo riguardo, non sei d'accordo? Troppo, va bene. Sì, poi ne discutiamo. Comunque io ti posso dire che indicativamente, no? Così le cose stanno. Poi ci possiamo. Guarda che io mi riferisco alla Lombardia, al dato della Lombardia, non al dato nazionale, Cioè non lo so, è utile precisare. E comunque anche se fosse solo la metà, se me lo consenti, io già avrei ragione di preoccuparmi parecchio. No, comunque dicevo, io tengo ben presente chi vota, ma quello che mi preoccupa è capire che uso. Poi se poi viviamo in una società dove vige il sistema della democrazia rappresentativa, quindi Bossi quando poi userà e impiegherà i suoi voti in Parlamento, in Senato e alla Camera, non andrà a chiedere il parere e l'avallo del disperato dalla Val Seriana, del Bergamasco o della pianura padana, se fa bene a fare così. No, per 5 anni il mandato è quello e quindi lui ne fa uso a piacimento. Una cosa comunque è certa, sarebbe sbagliato credere alle cose che dice Bossi, che la Lega è un partito super partes. Non è così. Non è che la Lega... Io sono del parere che oggi destra e sinistra, caro Bioccio, è evidentemente un rapporto che possiamo anche ridiscutere. Mi fa paura il fatto che chi ha ridiscusso questo rapporto un giorno ha messo in discussione l'esistenza o meno del conflitto sociale. Allora, se siamo d'accordo che comunque, come dicevi tu, che il conflitto sociale c'è, ridefiniamo come si può oggi collocare il conflitto sociale, non sarà più la destra o la sinistra, io provvisoriamente dico... Separiamo le forze politiche tra progressiste e conservatrici o neoconservatrici, però oggi abbiamo il dovere di collocarla. Bene, se io devo collocare la Lega, non posso collocarla tra le formazioni progressiste. Non posso, assolutamente. L'operazione di centro gli consento che la faccia Bossi perché gli conviene farla ed è intelligente, ed è un animale politico, avrebbe sbagliato a non farla. Non c'è dubbio che il leghismo oggi è una formazione che è da essere collocata tra le forze, io le definisco neoconservatrici. Perché? Andiamo a vedere. C'è qualcuno che a me dice, ma non è vero che la Lega ha un'ideologia e un programma, ma è proprio così. Bene, io vado a ricostruirmi la storia di quando... nasce nella testa di Bossi l'idea del federalismo, lui lo chiama federalismo integrale. Bene, cos'è che pensa Bossi? Cos'è che elabora Bossi? L'idea di Bossi, e qui ci sono tutti i documenti del congresso della Lega Lombarda, che sono lì, su quelli si può prendere atto se queste sono versioni ideologiche, interpretazioni ideologiche, o se invece le cose non stanno veramente così. Bossi parte da questo concetto. È fallita l'esperienza storica del socialismo. Però, dice Bossi, presto finirà anche il sistema capitalistico. E allora ci vuole la terza via. Il tempo era Berlinguer che elaborava le terze vie. No, adesso è arrivato Bossi. Dopo che i comunisti, il PC, non ne voleva più sapere di terza via, no, è arrivato Bossi e dice ci vuole la terza via. Questa terza via qual è? È il federalismo integrale. Cos'è questo federalismo integrale? Bossi dice, fonda il federalismo, questa idea del federalismo integrale, su due principi. Ognuno deve comandare a casa propria, primo. Secondo, è da escludersi la prospettiva della società multirazziale e multiculturale. Perché questa, dice Bossi, crea tanti scompersi, tra cui porta addirittura la gente a non riprodursi più, cioè blocca, no, i tassi di natalità, eccetera, eccetera. Questo, dice Bossi, è appunto la conseguenza della società multietnica e multiculturale. E da qui Bossi fa discendere, questo badate, non è forse questa una concezione del mondo. Noi siamo oggi a un paradosso, siamo a fronte della crisi delle ideologie e guarda un po', invece di nascere un nuovo pensiero, la sinistra qui è fallimentare, nasce una nuova ideologia, che è quella appunto leghista. E Bossi, alla luce di questa visione del mondo, come dire, snocciola le sue linee strategiche. Allora, una di queste linee è l'integralismo, è il federalismo integrale, il quale, badate bene, non è da confondere col federalismo dei Cattaneo, dei Gioberti, degli Sturzo e così via. No, quello che Bossi porta avanti è il separatismo, perché parte da questo principio. Io sto bene, non è un caso che le leghe poi sono il fenomeno tipico delle società più evolute, delle società più ricche. Io sto bene, oggi sono minacciato, il mio status sociale è minacciato da chi mi viene dal di fuori, che vuole dividere con me i posti di lavoro, gli alloggi, eccetera, eccetera. Quindi io oggi, per poter garantirmi questo status sociale, questo livello di vita, io devo fare una cosa, devo far sì che tutte le risorse che io produco io le consumi qui e queste non abbiano a superare i confini della nostra, in questo caso la nostra regione o della nostra macro regione. Se voi andate a ben vedere le proposte che la Lega mette in campo nel momento in cui delinea la Repubblica del Nord, non sono tanto quelle, qui Miglio con i suoi due ultimi libri lo spiega in modo chiaro, non è tanto quello di modificare la Costituzione negli articoli 117, 118, 119, quelli che attribuiscono i compiti alle regioni, no, l'ambizione dei Miglio è quella di modificare gli articoli 3 e gli articoli 4, gli articoli 41, 42, 43 della Costituzione, cioè che sono quelli che sanciscono i diritti e i doveri del cittadino, che sanciscono la funzione, come dire, solidaristica di tutte le istituzioni repubblicane. Quindi qui significa rimettere veramente in discussione quella che è la matrice progressista e democratica della Costituzione italiana. Quando un giornalista a Miglio gli dice ma se voi volete gestirvi tutte le risorse che producete, quindi chiudere i rubinetti della solidarietà verso le regioni povere, com'è che faranno queste regioni povere a sopravvivere? Emilio risponde in modo serafico: ma la Calabria, la Sicilia facciano una cosa, fittino le basi militari alle potenze straniere come fa Malta e così potranno sopravvivere. Questo vi dà l'idea, qui c'è tutto un programma attorno a questa idea della Repubblica del Nord. Quindi qui è separatismo. Questa è una, come dire, è la legalizzazione degli spiriti egoistici che nascono e che si che nascono e che provengono dalla cosiddetta modernità e dalle società evolute. Guardate, non sono solo io a sostenere queste cose. Felicemente, con grande soddisfazione, io finalmente sono riuscito a leggere una pagina, chi di voi ha modo di procurarsela se la procuri, ieri del Sole 24 Ore, dove finalmente anche il giornale della Confindustria si è reso conto che quello che porta avanti Bossi e Miglio non è affatto federalismo, ma è separatismo. C'è un secondo aspetto: se voi chiedete a qualsiasi partito, o volete capire di un partito o di qualsiasi partito, quale interesse difende, non c'è altro da fare che andare a vedere qual è la politica economica che porta avanti questo partito, perché è nella politica economica che questi decidono di difendere, o chi sta bene o chi sta male e così via. Ebbene, la politica economica che la Lega porta avanti, elaborata nei congressi, è già tradotta in proposte di legge depositate in Parlamento dagli allora due soli parlamentari, è una linea politica di neoliberismo spinto. Il modello di Bossi è la signora Thatcher. Bossi e Miglio sono per la privatizzazione di tutto. Guardate, non solo dei carrozzoni statali, per privatizzare la sanità, la scuola, i trasporti, tutto quello che è privatizzabile. In prima istanza, in seconda istanza, tutte le elaborazioni della Lega in politica economica, ma anche in politica sociale, si muovono in direzione della liquidazione totale del welfare state, cioè dello Stato sociale. Voi sapete bene cosa è successo laddove lo Stato sociale è stato liquidato. Andate a vedere cosa succede, come stanno le cose oggi in Inghilterra e negli Stati Uniti in particolare, e ve ne rendete conto. Bene, Bossi, ad esempio, cos'è che dice quando teorizza, costruisce l'idea del SAL, il sindacato autonomo dei lavoratori lombardi, ma che c'è anche poi quello degli emiliani, non lo so quanti militanti conti, ma c'è anche quello. L'idea su cui fonda questo sindacato, ad esempio, è questa. Dice: aboliamo gli oneri sociali. Se noi aboliamo gli oneri sociali, consentiamo al datore di lavoro di conseguire più profitto perché non paga più tasse allo Stato, e quindi queste se le trattiene. Ma anche al lavoratore consentiamo di aumentare il salario perché gli togliamo il trattamento dalla busta paga. Quindi noi non versiamo nulla allo Stato, in questo caso allo Stato centrale, ma ognuno si trattiene quel che è. E qui dice, qui gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, no? Quindi lui risolve così la contraddizione capitale-lavoro, no? Questi incominciano a incontrarsi e quindi possono trovare motivazioni di lotta comune in confronto allo Stato, ai partiti, eccetera, eccetera. Guardate che ad esempio il SAL, Alia e SAL, Alia è la Confindustria della Lega Nord, Alia e SAL hanno già elaborato proposte, disegni di legge che riguardano ad esempio la modifica dello Statuto dei diritti dei lavoratori. In che senso? Eliminare la giusta causa e reintrodurre il principio della la facoltà di libertà di licenziamento. Mi pare che questo è sintomatico, non so chi è in grado di dirmi che questo è un provvedimento che va a favore dei lavoratori dipendenti, non lo so. Bossi ha già detto che non solo agli statali non vanno aumentati gli stipendi e i salari, ma vanno bloccate le pensioni. Addirittura quando Bossi pensa alla riforma delle pensioni, pensa che alla gente vada riconosciuto solo il minimo, perché poi l'integrativa ognuno se la farà attraverso le assicurazioni private, eccetera, eccetera. Io non lo so se questa è una soluzione che si può considerare progressista. È vero che c'è un vento oramai dagli anni Ottanta e ancora oggi che spinge a destra alla privatizzazione, alla liberalizzazione di tutto e così via, ma insomma queste sono le proposte. Io francamente non ho mai sentito dire niente Stato è più privato, venire fuori dalla bocca niente Stato è più privato come fanno i leghisti, come fa Bossi, neanche dai Mortillaro, neanche dai Romiti, che sono i falchi, sono stati i falchi in questi anni passati della Confindustria e del mondo imprenditoriale. Quindi qui c'è da avere, e perché non devo credere a queste cose? Perché devo io giudicare la Democrazia Cristiana, il craxismo, i liberali e tutte le altre forze per quel che mi dicono che vogliono fare, e perché devo fare gli sconti alla Lega Nord? No, questo è il programma della Lega Nord. Quelli sono i programmi e noi presto ce li vedremo lì in televisione, perché fino a ieri il Bossi e il Leoni potevano giostrare perché erano appena in due e svicolare, ma oggi con un esercito di 80 parlamentari, questi qua saranno costretti a dire sì o no, a misurarsi su tutti i provvedimenti. E quindi avremo presto modo anche qui di vedere sciogliersi le ambiguità della Lega Nord e quindi l'emergere di quello della natura della sua forza. Terzo elemento, intolleranza. Si sbaglia quando si dice la Lega è razzista, o i leghisti sono razzisti. Non è vero, è una palla. Io sono del parere che la Lega esprime una forte xenofobia, come l'hanno espressa in modo sempre compiuto gli svizzeri negli anni, a partire dalla metà degli anni 70 in poi. È un'intolleranza indotta, cioè se io voglio star bene in casa mia, quando arriva quello per di più povero che ha bisogno di solidarietà e così via, questo mi scombina evidentemente, quindi voglio che... Però gli effetti, guardate bene, gli effetti non sono molto diversi. Non so, io voglio citarvi solo due esempi. Quando a Milano la Lega presenta le liste alle università, alla statale, alla Bocconi, no, alla Cattolica, eccetera, eccetera, nel programma dei leghisti c'è il numero chiuso. Ma il numero chiuso non solo per gli studenti, ma dove si dice qui devono venire solo studenti, devono essere accettati solo studenti lombardi, studenti del nord, del sud Italia. Studenti, ho avuto uno scontro l'altra sera con un leghista, perché ragionando sul nord-sud mi dice: ma facciamo venire qui questi a studiare, poi, ma come fate a farli venire qui a studiare se poi i vostri a Milano, nel momento in cui si tratta di programmare l'università, dicono fuori tutti quelli che non sono lombardi. Ma addirittura, badate bene, non solo per gli studenti il numero chiuso, addirittura per gli insegnanti, i docenti. Questo significa che Rita Levi Montalcini o Rubbia alle rispettive facoltà di biologia o di fisica a Milano hanno difficoltà a questo punto di andarci a fare lezioni, perché secondo, se questi sono i criteri che domani venissero adottati, questi evidentemente non sono lombardi. Non solo, una proposta che i leghisti hanno già fatto e depositato istituzionalmente è quella che il riconoscimento della cittadinanza non sia più lasciato nelle mani dell'ufficiale di Stato civile, ma venga invece deciso dal Consiglio Comunale. Cioè significa che a Bologna domani arriva una nuova famiglia, intanto è ancora in Beni dovrà convocare il Consiglio Comunale e quindi decidere in quel consesso se quella famiglia dovrà far parte o no del comune della comunità di Bologna. Guardate, chi di voi si ricorda le proposte che qualche mese fa, 7-8 mesi fa, aveva fatto Giscard d'Estaing in Francia, quando sotto l'incalzare dell'eupenismo aveva tirato fuori dal cappello questa idea, no? Facciamo la prova del sangue per stabilire chi è francese e chi no. Beh, questa è abbastanza in parentela con le cose che oggi i leghisti portano avanti. Questo è il dato. Allora, non sono razzisti, hanno niente a che vedere con, come dire, con il tradizionale razzismo che noi abbiamo conosciuto, quello illuminista e così via, no? Però qui c'è una nuova forma di intolleranza i cui effetti sarebbero altrettanto disastrosi. E infine il problema della democrazia, qui si parla a sinistra. Io sono già oggi noi siamo sotto la minaccia di svolte autoritarie, ma la democrazia è un bene irrinunciabile. Ebbene, la Lega come la mette con la democrazia? Non solo andiamo a vedere cosa ha fatto Bossi, chi dissentiva, li ha espulsi, eccetera, eccetera. Padre Padrone, riconosciuto oramai da tutti, i loro stessi hanno detto che era uno stalinista, eccetera, eccetera. Ma andate a vedere i loro statuti. Se voi prendete lo statuto, guardate, non della Lega Lombarda originale, della Lega Nord, vi troverete a un tratto in questo statuto sancito questo concetto, anzi questo principio. La struttura superiore ha la facoltà di sciogliere la struttura inferiore, cioè il gruppo dirigente federale ha la facoltà di sciogliere il gruppo dirigente nazionale della Lega, cioè quello emiliano. Quello emiliano ha la facoltà di sciogliere quello bolognese quello circoscrizionale, eccetera, eccetera. Beh, già questo è una cosa evidentemente che non mi può tornare, come dire, tanto simpatica. È vero che la Lega può vivere come ne ha voglia e siamo in un regime di libertà, ma questa è una limitazione della libertà. Ma sentite cosa dice, ve lo leggo rapidamente, cosa dice Bossi. Bossi Emilio, a proposito di democrazia, ai suoi Bossi dice: un movimento che aspetta di diventare forte e democratico non può aprire subito le porte a tutti. Quando avremo sezioni comunali e periferie forte, le elezioni avverranno attraverso i vari delegati. Quindi questo è un modo per dire: la democrazia la attueremo chissà quando nella Lega. Ma dice soprattutto poi: ci vuole un uomo, uno solo, che tira le fila, uno che conosce il movimento come le sue tasche e che ha le tasche vuote perché non ruba. Se 100 hanno la stessa voce in capitolo, è finita. Non ho mai visto girare una ruota senza perno. Se i fili non vanno a una persona, non funziona niente. Ho in mente la Jugoslavia, dove senza Tito è scollato tutto. E ancora, il partito delle autonomie, cioè la Lega, è una corazzata che va governata col dito sul grilletto, per sparare al momento giusto su chi tradisce la causa. E gli fa la spalla Miglio, quale teorizza: per un nuovo movimento politico, lo Stato nascente, è essenziale l'unità di comando. La democrazia è appunto un momento, non può essere una costante, altrimenti la sintesi politica fallisce. Voi tenete conto che Emilio è colui che ha già detto che bisogna riformare il sistema elettorale italiano, ma con un criterio: chi vive di paga pubblica non deve più avere diritto al voto. Cioè, sono i dipendenti comunali, statali, insegnanti, eccetera. Perché? Perché questi, secondo Miglio, no, in qualche modo consumerebbero una sorta di reato, no, di, come dire, di interesse privato in atti d'ufficio. Cioè Miglio dice: se questi continuano a votare, non possono che continuare a votare quei partiti che fino ad oggi garantiscono loro questo ruolo sociale di privilegio. Non solo, ma questo vecchio, grande vecchio, che è ideologo delle leghe, adesso è approdato, a 74 anni è approdato in Parlamento, e qualche mese fa ancora sosteneva, e questo è scritto nei suoi libri, che per poter andare a un cambiamento in questo paese bisogna sospendere per almeno 10 anni le elezioni, salvo poi farsi eleggere, ma sospendere per 10 anni le elezioni. Questo vi dà l'idea di quale considerazione le leghe abbiano per la democrazia. Allora, se sono vere queste cose, e io, guardate, non ve le ho dette solo qui, qui sono meglio documentate, no, qui e anche sull'altro lavoro che ho fatto sono meglio documentate, e mi chiedo dove posso collocare la Lega oggi. Magari fosse un movimento che oggi cresce all'insegna di un cambiamento, ma nel segno del progresso. No, qui parlate bene, qui il progresso qui dentro non ce n'è affatto, qui c'è solo da scontrarsi. A me fa paura non tanto la Lega in sé, a me fa paura l'uso politico che qualcuno può fare e sicuramente farà delle leghe che si informano a questi principi, a queste strategie politiche. Io lo dicevo in Parlamento, presto vedremo, anzi questi giorni vedremo con chi si schiererà la Lega per far sortire il nuovo Presidente della Repubblica, se si schiererà per far sortire un Presidente aperto, non dico di sinistra, ma uomo di progresso che è garante della democrazia, o se invece porterà i suoi voti a sostenere invece o a contribuire a far uscire un uomo che invece pensa diversamente. Cosa deve fare di fronte a queste cose la sinistra? E ho finito. Io sono del parere che le cose sono tante. Per dirla in breve, in due minuti, la prima cosa è che non può più confondere le leghe, scambiare le leghe per partito neutrale. No, qui siamo in presenza di un movimento che secondo me fa paura. E la cosa che ancora fa paura non sono tanto le proposte di Bossi e di Miglio e così via, no? Le elaborazioni politiche. Mi fa paura prima ancora il fatto che le leghe sono il prodotto di un imbarbarimento del senso comune di questa società. Questo è il dato. E qui diventano imprenditori della xenofobia, di un'intolleranza che c'è già, che è prodotta da questa società, che sta già sotto l'epidermide e non da adesso, della gente, soprattutto della gente che sta bene. Sì, è un imprenditore, le leghe sono imprenditrici politiche, se volete, di un'idea dell'economia, di un'idea della democrazia che deve far paura a sinistra. Miglio si è posto in testa, in termini chiari, di sostituire la democrazia parlamentare con la democrazia di mercato, con la democrazia fondata sul profitto, sulle logiche del profitto e delle convenienze, questo è il dato. Allora, qui intanto bisogna sgomberare il campo dagli equivoci, in primo luogo. Secondo luogo bisogna giocare sulle contraddizioni, e le contraddizioni delle leghe sono tante. È un peccato che come dire, adesso esploderanno probabilmente per se stesse, e invece la sinistra non ci abbia lavorato su tutto questo. E poi significa che se io voglio fare i conti con il leghismo, qui bisogna che ricominci a fare i conti con i miei progetti di cambiamento della società, perché se la Lega è andata avanti è perché sono arretrate le forze del cambiamento. La gente oggi avverte che c'è un bisogno di cambiamento, noi dobbiamo far capire che non si cambia solo e necessariamente nel segno progressista, si può cambiare anche nel senso dell'involuzione, e le leghe secondo me sono appunto un movimento che domani ci porterebbe a queste prospettive. Comunque bisogna fare i conti con le cause profonde. Dire ci vogliono riforme, sì, ma ad esempio noi siamo di fronte a una crisi di rappresentatività che non è solo quella dei lombardi, degli emiliani, degli italiani, no, la crisi di rappresentatività, la crisi della rappresentanza oggi è mondiale, è universale, e qui bisogna cominciare a fare i conti con questo. Io sono del parere che è in crisi il suffragio universale, badate bene, il meccanismo stesso che bisogna oggi, no, non perché non vale più, ma perché bisogna spostarsi in avanti, perché la società cammina. Allora io sono del parere che ogni riforma dello Stato, delle istituzioni, o parte dal principio che va reinventato il rapporto tra governati e governanti, va in sostanza trasferito il potere di fatto dalle istituzioni, dai partiti politici alla società civile, o si fa questo. Se non si fa questo, possiamo fare tutte le riforme in sto mondo, ma le cose non cambieranno. In secondo luogo, bisogna che soprattutto la sinistra ripensi al modello di sviluppo. Io non ho il tempo per farlo qui, ma se noi andassimo a fondo, ci accorgiamo che il leghismo nasce anche dalle contraddizioni, dalla irrazionalità di questo modello di sviluppo, dagli egoismi che oramai sprigiona. A me fa sorridere chi dice bisogna ripristinare la solidarietà. Ma Cristo, come fa a ripristinare la società, il valore della solidarietà in una società dove che ti induce ogni giorno, ogni momento a essere il primo, ad essere competitivo, ad avere più soldi, ad avere tutte queste qualità? La solidarietà si annega qui dentro, non ha più senso. La sciama resta un valore nella testa del Martini e del Giampaolo II, nulla più. In terzo luogo c'è bisogno che la sinistra, un tempo la fortuna della sinistra era anche perché, come dire, faceva i conti con la filosofia, con le scienze, eccetera, eccetera, con l'etica, e oggi invece mi pare che la sinistra si sia adeguata, oramai l'unico valore cos'è? È la managerialità, no? È quello che i socialdemocratici tedeschi nel loro ultimo congresso hanno criticato, no? Come la fase del, com'è che si chiama? Del pragmatismo, no? E oramai la sinistra si è adeguata. Oramai l'unico valore è quello pragmatico. Beh, io sono del parere che questo ha contribuito e contribuisce non molto, non solo a far venire meno la capacità di egemonia della sinistra sulla società, ma questo soprattutto ha contribuito e contribuisce a far perdere lo spirito critico alla gente, a far perdere la capacità di autonomia. E del resto oggi tutto quanto produce, se me lo consentite, il mondo dei mass media e così via, non è che è fatto per esaltare lo spirito critico della gente, no, è fatto per mandare messaggi, per omologare. Ebbene, o qui c'è una forza che si mette in campo e che recupera lo spirito critico, recupera l'autonomia, il valore dell'autonomia di ogni essere umano, oppure noi qui, secondo me, non abbiamo motivo di lamentarci, perché Bossi vince proprio sul fronte dei luoghi comuni, sul fronte del particolarismo e così via. Quindi o la sinistra rifà i conti con se stessa, e quindi qui sono d'accordo con nuove categorie di interpretazione, di analisi, soprattutto con nuova teoria, oltre che nuova strategia e nuove politiche, o si fa questo, oppure secondo me, guardate bene, fra vent'anni, se io ci sarò ancora, saremo ancora qui, se ne varrà la pena, a discutere di come sconfiggere il leghismo, quando noi saremo una parte residuale di questa società. Bene, ho aperto il dibattito, se qualcuno ha interventi, domande da fare. Mi venivano in mente delle alcune che mi sembravano somiglianze per alcuni aspetti, no? Nel senso che sia dai programmi economici sia da varie altre cose, sia dal tipo di ceto politico della Lega, mi veniva in mente in pratica la rivolta fiscale che poi ha portato al potere Reagan, cioè in sostanza i ceti medi che in qualche modo si ribellano contro la ridistribuzione del reddito attraverso l'imposizione fiscale. Poi mi veniva anche in mente per certi versi la base sociale, per esempio, dei repubblicani, cioè il ceto medio tradizionale, che in qualche modo in Germania veniva definito di perdenti del processo di modernizzazione capitalistica degli anni 80. Nel senso che questi, sia sociologicamente che economicamente, sarebbero ceti perdenti in regresso e che si rivolterebbero con questa protesta tipo populista, xenofobo, verso in qualche modo sia i nuovi poveri che vengono dall'esterno, sia anche nei confronti in certa misura del grande capitale, in sostanza. Questo dal punto di vista così è strutturale, vedevo queste somiglianze. Poi un'altra cosa che secondo me su cui le leghe hanno marciato molto è il fatto che in qualche modo la sinistra, una parte della sinistra, negli anni passati in qualche modo ha contribuito al fatto che si sia creato un senso comune della gente di destra, nel senso che parte della sinistra, vabbè, dicevano i leghisti sono brutti, cattivi e razzisti, però gli stranieri sono effettivamente un po' troppi. Cioè su questa rendevolezza nel contrastare gli argomenti della Lega, secondo me, la Lega ci ha campato di rendita, nel senso che era quella che esprimeva in modo più compiuto, esplicito chiaro e comprensibile alla gente quello che poi era diventato senso comune anche per questa rendevolezza della sinistra nel contrastare questo senso comune che si andava instaurando. Volevo sapere che cosa ne pensavo. Alcune considerazioni più che altro per fare delle domande, visto che siamo qui per...